Sezione 7 de Il Decameron, parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Pierre. Il Decameron, parte prima, giornata prima di Giovanni Boccaccio. Seconda novella. Abram, giudeo, da Giannotto di Cevigni stimolato, va in corte di Roma e, veduta la malvagità dei chierici, torna a Parigi e fassi cristiano. La novella di Panfilo fu in parte risa e tutta commendata dalle donne, la quale, diligentemente ascoltata e dalla sua fine essendo venuta, sedendo appresso di lui in Eifile, le comandò la reina che una dicendone l'ordine dell'incominciato sollazzo seguisse, la quale, sì come colei che non meno era di cortesi costumi che di bellezze ornata, lietamente rispose che volentieri, e cominciò in questa guisa. Mostrato n'ha Panfilo nel suo novellare la benignità di Dio non guardare a nostri errori quando da cosa che per noi veder non si possa procedano. Ed io, nel mio, intendo di dimostrarvi quanto questa medesima benignità, sostenendo pazientemente i difetti di coloro li quali d'essa ne devono dare e con l'opere e con le parole vera testimonianza, il contrario operando, di sé argomento di infallibile verità ne dimostri, acciò che quello che noi crediamo con più fermezza d'animo seguitiamo. Sì come io, graziose donne, già udì ragionare, in Parigi fu un gran mercatante e buono uomo, il quale fu chiamato Giannotto di Cevigni, lealissimo e diritto e di gran traffico d'opera di drapperia, ed avea singolare amistà con un ricchissimo uomo giudeo chiamato Abram, il quale similmente mercatante era e diritto e leale uomo assai, la cui dirittura e la cui lealtà veggendo Giannotto gli incominciò forte ad increscere che l'anima d'un così valente e savio e buono uomo per difetto di fede andasse a perdizione, e perciò amichevolmente lo incominciò a pregare che egli lasciasse gli errori della fede giudaica e ritornassesi alla verità cristiana, la quale egli poteva vedere, sì come santa e buona, sempre prosperare ed aumentarsi, dove la sua, in contrario, diminuirsi e venire a niente poteva discernere. Il giudeo rispondeva che niuna ne credeva né santa né buona fuor che la giudaica, e che egli in quella era nato ed in quella intendeva e vivere e morire, né cosa sarebbe che mai da ciò il facesse rimuovere. Giannotto non istette per questo che egli, passati alquanti dì, non gli rimuovesse similianti parole, mostrandogli così grossamente come il più i mercatanti sanno fare, per quali ragioni la nostra era migliore che la giudaica. E come che il giudeo fosse nella giudaica legge un gran maestro, tuttavia, o l'amicizia grande che con Giannotto avea che il movesse, o forse parole le quali lo Spirito Santo sopra la lingua dell'uomo idiota poneva che se il facessero, al giudeo cominciarono forte a piacere le dimostrazioni di Giannotto. Ma pure, ostinato in sulla sua credenza, volger non si lasciava. Così, come egli pertinace dimorava, così Giannotto di sollecitarlo non finava giamai, tanto che il giudeo, da così continua istanza vinto, disse: «Ecco, Giannotto, a te piace che io divenga cristiano? Ed io sono disposto a farlo, se veramente che io voglio in prima andare a Roma e quivi vedere colui il quale tu di che è vicario di Dio in terra, e considerare i suoi modi ed i suoi costumi, e similmente dei suoi fratelli cardinali. E se essi mi parranno tali che io possa, tra per le tue parole e per quegli comprendere che la vostra fede sia miglior che la mia, come tu ti sei ingegnato di dimostrarmi, io farò quello che detto t'ho. Ove così non fosse, io mi rimarrò giudeo, come io mi sono. Quando Giannotto intese questo, fu in se stesso oltremodo dolente, tacitamente dicendo: «Perduta ho la fatica, la quale ultimamente mi pareva avere impiegata, credendomi costui aver convertito. Perciò che, se egli va in corte di Roma e vede la vita scellerata e lorda dei chierici, non che egli di giudeo si faccia cristiano, ma se egli fosse cristian fatto, senza fallo giudeo si ritornerebbe». E ad Abram rivolto disse: «Deh, amico mio, perché vuoi tu entrare in questa fatica e così grande spesa come a te sarà ad andare di qui a Roma? Senza che, e per mare e per terra, ad un ricco uomo come tu sei, c'è tutto pien di pericoli. Non credi tu trovar qui chi il battesimo ti dea? E se forse alcuni dubbi ha intorno alla fede che io ti dimostro, dove ha maggior maestri e più savi uomini in quella che son qui da poterti di ciò che tu vorrai o domanderai di chiarire? Per le quali cose, al mio parere, questa tua andata è di soperchio. Pensa che tali son là i prelati quali tu li hai qui potuti vedere, e più, e tanto ancor migliori quanto essi più vicini al pastor principale. E perciò questa fatica, per mio consiglio, ti servirà in un'altra volta d'alcun perdono, al quale io per avventura ti farò compagnia». A cui il giudeo rispose: «Io mi credo, Giannotto, che così sia come tu mi favelli, ma recandoti le molte parole in una, io son del tutto, se tu vogli che io faccia quello di che tu m'hai cotanto pregato, disposto ad andarvi, ed altrimenti mai non ne farò nulla». Giannotto, veggendo il voler suo, disse: «E tu va con buona ventura». E seco avvisò lui mai non doversi far cristiano, come la corte di Roma veduta avesse. Ma pur, niente perdendovi, si stette. Il giudeo montò a cavallo e, come piuttosto poté, se ne andò in corte di Roma, dove pervenuto da suoi giudei fu onorevolmente ricevuto. E quivi dimorando, senza dire ad alcuno perché ito vi fosse, cautamente cominciò a riguardare le maniere del Papa e dei cardinali e degli altri prelati e di tutti i cortigiani. E tra che egli s'accorse, sì come uomo che molto avveduto era, e che egli ancora d'alcuno fu informato, egli trovò dal maggiore infino al minore generalmente tutti disonestissimamente peccare in lussuria, e non solo nella naturale, ma ancora nella sodomitica, senza freno alcuno di rimordimento o di vergogna, intanto che la potenza delle meretrici e dei garzoni in impetrare qualunque gran cosa non v'era di piccol potere. Oltre a questo, universalmente gulosi, bevitori, ebriachi e più al ventre serventi a guisa d'animali bruti appresso la lussuria che ad altro gli conobbe apertamente. E più avanti guardando, intanto tutti avari e cupidi di denari li vide, che parimenti l'uman sangue, anzi il cristiano, e le divine cose, ch'enti che elle si fossero o a sacrificio o a benefici appartenenti, a denari e vendevano e comperavano, maggior mercatantia facendone e più sensali avendone che a Parigi di drappi o d'alcun'altra cosa non erano. Avendo alla manifesta simonia procureria posto nome e dalla gulosità sostentazioni, quasi Dio, lasciamo stare il significato dei vocaboli, ma l'intenzione dei pessimi animi non conoscesse, e da guisa degli uomini a nomi delle cose si debba lasciare ingannare. Le quali, insieme con molte altre che da tacer sono, sommamente spiacendo al giudeo, sì come a colui che sobrio e modesto uomo era, parendogli assai aver veduto, propose di tornare a Parigi, e così fece. Al quale, come Giannotto seppe che venuto se n'era, niuna cosa meno sperando che del suo farsi cristiano, se ne venne, e gran festa insieme si fecero. E poi che riposato si fu alcun giorno, Giannotto il domandò quello che del Santo Padre e dei cardinali e degli altri cortigiani gli parea, al quale il giudeo prestamente rispose: «Parmene male che Dio dea a quanti sono, e dicoti così, che, s'io ben seppi considerare, quivi niuna santità, niuna divozione, niuna buona opera o esempio di vita o d'altro in alcuno che chierico fosse, vedermi parve, ma lussuria, avarizia, egulosità, fraude, invidia e superbia, e simili cose piggiori, se piggiori esser possono in alcuno, mi vi parve in tanta grazia di tutti vedere che io ho piuttosto quella per una fucina di diaboliche operazioni che di divine. E per quello che io estimi, con ogni sollecitudine, con ogni ingegno e con ogni arte, mi pare che il vostro pastore e per conseguente tutti gli altri si procacciano di riducere a nulla e di cacciare del mondo la cristiana religione, là dove essi fondamento e sostegno esser dovrebbero di quella. E perciò che io veggio non quello avvenire che essi procacciano, ma continuamente la vostra religione aumentarsi, e più lucida e più chiara divenire. Meritamente mi par discerner lo Spirito Santo esser d'essa, sì come di vera e di santa più che alcuna altra fondamento e sostegno. Per la qual cosa, dove io rigido e duro stavo a tuoi conforti e non mi volea far cristiano, ora tutto aperto ti dico che io per niuna cosa lascerei di cristian farmi. Andiamo dunque alla chiesa e quivi, secondo il debito costume della vostra santa fede, mi fa battezzare. Giannotto, il quale aspettava direttamente contraria conclusione a questa, come lui così udì dire, fu il più contento uomo che già mai fosse. E da Nostra Dama di Parigi, con lui insieme andatosene, richiese i chierici di là entro che ad Abram dovessero dare il battesimo. Li quali, udendo che esso l'addomandava, prestamente il fecero. E Giannotto il levò del sacro fonte e nominollo Giovanni, ed appresto a gran valenti uomini il fece compiutamente ammaestrare nella nostra fede, la quale egli prestamente apprese, e fu poi buono e valente uomo e di santa vita. Fine della sezione 7.